Graffa, tutto R. Sì, sì, tutto di lusso, burro sciolto, tonnellate, seguito su tonnellate, proprio una meraviglia, cava. Meraviglia, meraviglia, meglio così, dai. Così non ti cresce a fare forza con le mani. È stato per dire. Ma no. Allora, Mario, vabbè, io devo mangiare, di nuovo con la arrabbiata. La baracca, cava cava, e tu ci hai mangiato, no? Preparato. bisogna mettere un po' di roba, altrimenti siamo fregati. E beh, e tu, la cura come sta andando? Ehi, mi sta baciando il dolore e mi prende di influenza, va. Sono tutto intaggiato, Mario. Thank you.